Leggiamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 15, dai versetti 11 a 31. Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano salvo. Udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava a rientrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, son già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Luca 15, 11-31. Questa famosa parabola di Gesù è conosciuta come la parabola del figlio prodigo. Racconta di un giovane che, stanco della vita comoda che viveva in famiglia, ha chiesto la sua parte di eredità al padre. E se n'è andato lontano da casa pensando di potersi godere la vita finalmente libero dagli sguardi paterni. Ma, dal momento che non tutto quello che luccica è oro, ben presto si trovò nel più profondo bisogno. E, in un attimo di lucidità, si ricordò di quanto stava bene a casa sua. Preso coraggio, torna a casa, chiede perdono e il padre, che da tanto lo aspettava, lo accoglie gioioso, facendo allestire una festa per il suo ritorno. A questo punto la parabola del figlio prodigo sarebbe finita, ma Gesù introduce nel suo racconto un altro personaggio che sarà l'oggetto della nostra attenzione, il fratello maggiore. Molto probabilmente non si è prestata la dovuta attenzione al fratello del figlio prodigo, e credo di capire il perché. Dal momento che il figlio prodigo rappresenta tutti coloro che si sono allontanati da Dio e poi sono tornati a casa pentiti, il fratello del figlio prodigo rappresenta me, te, cioè coloro che non si sono allontanati dalla casa di Dio, noi che siamo rimasti in comunione con il Padre. Il messaggio di oggi quindi riguarda tutti i credenti fedeli, bravi, zelanti. Non mi indirizzo ai delinquenti, agli avanzi di galera o a gangsters, anche perché ci sono poche probabilità che ascoltino questa trasmissione, ma a delle persone rispettabili, che non farebbero male ad una mosca. Se hai una forte resistenza ad ascoltare queste parole, se protesterai in te stesso più o meno violentemente per ciò che udirai, significa che il messaggio ti riguarda più di quanto non pensi. È stato dimostrato che ciò che ci tocca nell'ambito morale generalmente corrisponde ad una certa verità. Se qualcuno mi dice che sono un assassino perché ho ucciso materialmente alcune persone non mi tocca più di tanto, ma se mi si dice che sono permaloso, allora posso anche offendermi perché in fondo permaloso lo sono. Così, se queste tre trasmissioni non ti lasciano indifferente, è il momento di riflettere e di migliorare la qualità della tua vita. È un dono di Dio l'essere toccati dallo Spirito Santo, dono che non dobbiamo mai sottovalutare. Nel 1881, un cristiano di nome Henry Drummond predicò incentrando il suo discorso sul fratello del figlio prodigo. Ascoltiamo una parte del suo discorso. Quando esaminiamo il peccato non nei suoi aspetti teologici, ma nei suoi abiti di ogni giorno, troviamo che si divide in due tipi, peccati del corpo e peccati del temperamento, o più esattamente, peccati delle passioni e peccati del carattere. Nel Nuovo Testamento il figlio prodigo è l'esempio dei peccati delle passioni, il fratello maggiore, i peccati del carattere. A prima vista si direbbe che il fratello minore è lui la nuvola nera, è lui che ha offuscato tutte le virtù e coperto se stesso e la sua casa di vergogna. Gli uomini hanno sempre indicato il figlio vagabondo, in contrasto con il fratello casalingo, come il rappresentante di quello che vi è peggiore nel carattere umano. È possibile che questa valutazione sia errata. Forse il peggiore dei due è il fratello maggiore. Noi giudichiamo i peccati, come la maggior parte delle cose, dalla loro forma esteriore. Classifichiamo i vizi del nostro prossimo secondo una scala che la società ha tacitamente adottato, mettendo in fondo i più grossolani e pubblici, quelli un po' meno grossi alquanto più in su. Poi, per uno strano processo, questa scala si perde nello spazio, lasciando l'ultima parte di sé inesplorata, e i suoi peccati senza nome non sono presi in considerazione, non vengono evitati. Ma noi non abbiamo una bilancia per pesare i peccati. Più volgari o più raffinati sono solo parole nostre. È probabile che i più raffinati siano i più gravi. I peccati più sottili e meno appariscenti, che sono più vicini alla parte spirituale di noi, dovrebbero essere i più degradanti di tutti. Eppure molte delle forme più raffinate di peccati, la nostra società non sa nemmeno riconoscerle. Questo peccato del fratello maggiore è cosa da nulla, si dice. Solo un po' di cattivo umore, che non vale neanche la pena di prendere in considerazione. Gesù Cristo invece ha ritenuto che valesse la pena di tramandarlo fino a noi. Tutto il disappunto accumulato dal fratello maggiore, finalmente ora scoppia, egli si adirò, e non volle entrare. Oh, il fanciullone, si è portati ad esclamare da principio. Invece è molto più di questo. È una nuvola di tempesta, che si è formata sotto tutte le sue virtù. I fluidi sottili di una dozzina di peccati si sono uniti e ora ardono nella sua anima: gelosia, collera, orgoglio, mancanza d'amore, crudeltà, propria giustizia, malumore, suscettibilità, ostinazione, si sono fusi in uno. Cattivo carattere. Eppure ci si ride su. E solo il temperamento, si dice, una nuvola passeggera. Ma dalla nuvola cadono gocce che fanno presentire un oceano immondo e pieno di acrimonia, composto appunto di gelosia, orgoglio, collera, mancanza di amore, crudeltà, propria giustizia, cattivo umore, suscettibilità, ostinazione. Ecco perché l'umore è importante, per quello che rivela. E la febbre intermittente che rivela la malattia in corso e la bolla d'aria che ogni tanto sale in superficie a tradire il marciume che ci è sott'acqua. E un campione preparato in fretta con i prodotti nascosti nell'animo, uscito fuori involontariamente quando non si sta attenti. E la forma visibile di una dozzina di peccati odiosi. Una delle prime cose che stupiscono i peccati del carattere è la loro strana compatibilità con altri valori morali. Senza dubbio il fratello maggiore era un uomo di alti principi, ma le virtù possono essere reali o solo apparenti. Alcuni uomini, per esempio, sono trattenuti dall'andare fuori strada unicamente dalla loro vigliaccheria. Non hanno abbastanza carattere per perdere il loro carattere? Farsi criticare da tutti e gettare al vento la propria reputazione richiede originalità, coraggio e sacrificio del proprio orgoglio. Succede così che molti uomini mediocri conservino esteriormente le loro virtù. Molti di quelli che seminano per la carne considerano la loro forma di peccato insignificante in confronto con i modi incoerenti e non cristiani di persone che professano di seminare per lo spirito. Per esempio, molti che non si fanno scrupoli di eccedere con il vino disdegnerebbero di compiere una azione ingenerosa e di dire una parola sprezzante e maligna. Il senso è che vi sono degli ubriaconi o adulteri che sono sensibili a certi comportamenti che sono tipici di cristiani, come la maldicenza, l'invidia. C è chi pecca nella sua natura superiore e C è chi pecca in quella inferiore. Il beone potrebbe nell'insieme essere migliore di chi, pur proclamandosi cristiano, è pieno di acidità nell'animo. Del resto anche i sodomiti, gli omosessuali, erano ritenuti migliori da Gesù che gli abitanti di certe città. Gesù diceva ai sacerdoti: «In verità i pubblicani e le meretrici vanno davanti a voi nel regno dei cieli». Il fatto dunque che vi siano due diverse qualità di peccati e che raramente la persona indulga in entrambe spiega la compatibilità di una condotta virtuosa con tanta bruttezza di carattere. Ed è proprio questa associazione fra le due che fa sembrare i peccati di carattere così innocui. Non ci può essere tanto male, pensiamo noi, dove ci è tanto buono in generale. Il cattivo carattere è il vizio della gente virtuosa. Il racconto del fratello maggiore, esposto da Gesù, è evidentemente rivolto alle persone virtuose, quindi a noi, non tanto per rendere buoni i cattivi, quanto per rendere perfetti i buoni. Fino a quando la gente non dirà di noi: sanno soffrire, sono benigni, non si inaspriscono, non si comportano in modo sconveniente, sopportano ogni cosa, non pensano al male, fino allora avranno poca speranza di guadagnare il mondo a Cristo. Un cristiano che provoca avversione è sufficiente per respingere una dozzina di figlioli prodighi. L'amore di Dio per i peccatori è oggetto di meraviglia, ma la pazienza di Dio verso i santi dal cattivo carattere è un mistero ancora più profondo. La parabola termina lasciando il prodigo dentro la casa, mentre il fratello maggiore fuori. Si è escluso da sé. Anche noi ci escludiamo da tante benedizioni per il nostro carattere e per ripicca personale. Perché disapproviamo certi metodi, perché il modo di lavorare di certi operai non è di nostro gusto. Facciamo come il fratello maggiore. Ci adiriamo e non vogliamo entrare. Tutti i peccati rovinano l'immagine di Dio, ma i peccati del carattere rovinano l'immagine di Dio, l'opera di Dio e la felicità del prossimo. Abbiamo detto che il fratello maggiore rappresenta il cristiano fedele, colui che può dire al padre: non ho mai trasgredito un tuo comando. Eppure egli si è adirato al punto che non ha voluto entrare. Abbiamo già preso in esame i vari peccati nascosti che hanno prodotto questo scatto d'ira. Ma una domanda si impone: perché il fratello maggiore è arrivato a questo punto? I peccati generalmente non si manifestano all'improvviso. Anche un fulmine, quando arriva, è preceduto da un temporale. Se non sappiamo perché il fratello maggiore si è comportato insensatamente, molto probabilmente anche noi corriamo il rischio di cadere in un tale comportamento. Dobbiamo allora assolutamente sapere perché il fratello maggiore ha sbagliato. Personalmente, ho trovato la risposta nel colloquio che il fratello maggiore ha avuto con il padre. Egli si lamenta perché non ha mai avuto dal padre neppure un capretto per far festa con i suoi amici, perché non ha avuto occasione di far festa, di rallegrarsi, di essere felice. Essere felice è l'aspirazione naturale di ogni uomo. Ma la risposta del padre è inaspettata. Egli non si presta a fare un gran discorso, non gli fa la morale, ma si limita a ricordargli due cose. La prima è: tu sei sempre con me. Una risposta del genere non può passare inosservata. Se il fratello maggiore rappresenta i cristiani fedeli, cioè noi che oggi viviamo osservando i comandamenti di Dio, Se il padre del fratello maggiore rappresenta Dio, allora questa risposta ci riguarda personalmente. Se è vero che un uomo onesto è colui che inizia col riconoscere di non essere onesto, è anche vero che un uomo sincero è colui che riconosce che prima o poi ha avuto, o tuttora ha invidia di coloro che stanno meglio di lui. Asaf, nel suo Salmo 73, invidiava i prepotenti e la prosperità dei malvagi. Lo scrittore Lewis ha affermato: «Esiste la gioia del risentimento». Se qualcuno afferma di non aver mai provato questo piacere, di certo è un bugiardo o un santo. Chi di noi non guarda con invidia la gioia delle persone appena convertite? Chi di noi vorrebbe avere lo zelo e la semplicità di coloro che sono appena diventati figli di Dio? Chi di noi non invidia certi discepoli di Cristo che prima hanno fatto tutto quello che hanno voluto, poi si sono pentiti e vivono una vita cristiana felice e abbondante? È vero. Anche nel nostro cuore, come in quello del fratello maggiore, ci può essere della gelosia. Dobbiamo ammetterlo. Ma Dio si limita a dire: «Figliolo, tu sei sempre con me». Per Dio la cosa più bella che una persona possa sperimentare in questa vita è essere sempre in comunione con Lui. Per Dio, ma forse non per noi. Se la comunione con Dio trascende qualsiasi gioia terrena, è questa l'opinione che abbiamo del nostro rapporto con Cristo? Che valore diamo ad una vita cristiana vissuta secondo la sua volontà? Perché noi non commettiamo certi peccati? E perché ci sono sgradevoli? Se è così, prima o poi li commettiamo, perché i nostri sentimenti sono mutevoli. Ma il peccato deve essere evitato per il fatto che comporta la perdita della comunione con Dio. Quando si è in comunione con Dio si evitano tanti dolori. Forse questo pensiero non è radicato nel nostro cuore, perché se così fosse, vi sarebbe un continuo canto e una lode sempre nuova. Tu sei sempre con me. Questa verità è talmente viva che, nonostante siano trascorsi 30 anni, sento il bisogno di ringraziarlo ogni giorno. Pensate quanta gente spasima alla ricerca di Dio. Quanto soffre per questo. Quanta angoscia per non riuscire a conoscerlo. Sei cosciente del dono che hai di essere con Dio, di vivere nella casa del Padre. Noi a volte guardiamo con invidia ai grandi uomini di Dio, ma il loro segreto non era poi così speciale. Essi bramavano con tutto il loro cuore di vedere Cristo e di stare con Lui, solamente con Lui. Pensiamo a Mosè. Volle intensamente vedere la faccia di Yahweh. Isaia vide la gloria di Yahweh. Filippo chiese di vedere il Padre e gli sarebbe bastato. E noi, qual è il desiderio più grande che abbiamo? Possiamo dire che in noi vi è un'arsura della presenza di Dio? Soffriamo di più perché non abbiamo certe cose, o perché in certi momenti non abbiamo la comunione con Dio? È inutile raccontarcela. Siamo tanto malvagi che dopo aver invocato Dio per essere salvati, una volta ottenuto il dono, possiamo trascorrere la nostra esistenza anche senza la comunione con Lui. Il nostro egoismo è veramente estremo. È per questo che con grande difficoltà si raggiunge l'obiettivo di realizzare che Cristo Gesù è tutto e che tutto il resto è NIE, Nuovo Testamento è. È vero che chi ha posto fede in Lui ha realizzato la sua abbondanza, ma spesso occorrono molti anni prima di avere un vero distacco dalle cose della vita. Spesso sono la sofferenza e la vecchiaia a farci apprezzare i doni di Dio per quello che sono diversamente. La nostra inclinazione naturale ci tiene vincolati alla vita terrena. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io non vi chiamo più schiavi perché lo schiavo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio». Giovanni 15 e 15. Se consideriamo un attimo qual era la sorte riservata allo schiavo del primo secolo della nostra era, comprenderemo la grazia accordataci da Dio. Lo schiavo era considerato come proprietà del suo padrone, esattamente quanto i beni e le bestie, per cui questo proprietario poteva disporne secondo la sua fantasia. Lo schiavo non aveva il diritto di fare una cosa oppure non farla. Il suo unico atteggiamento legale era la sottomissione senza riserve ai capricci del suo possessore. Lo schiavo non poteva prendere parte agli affari della città. Se poi pretendeva di essere un servitore di una divinità, secondo il pensiero filosofico del tempo, la offendeva, poiché gli dei traevano la loro gloria dall'essere serviti da uomini liberi. Inoltre, per i rabbini, dire a un uomo «tu sei uno schiavo» era la peggiore delle ingiurie, e colui che si rendeva colpevole di questa ingiuria meritava di essere cacciato dalla sinagoga. Lo schiavo quindi era considerato, per diritto e dignità, al pari di un animale, o forse anche meno, perché la storia ci dice che quando alcuni anfitrioni, cioè coloro che offrivano un pranzo a molti invitati, ricevevano degli ospiti illustri, lasciavano gli schiavi nei vivai dei pesci, dove allevavano le lamprede, perché questi pesci divenivano di sapore più delicato quando avevano mangiato la carne umana. Se sei un figlio di Dio, non sei felice solo perché vivi nella casa del Padre, ma anche perché, anziché fartici vivere come schiavo, come sarebbe stato possibile fare, Gesù ti ha accolto come amico e come suo fratello. Esiste una posizione più grande? Se prendiamo sul serio le parole di Gesù, non possiamo che cadere in ginocchio e adorare Dio per la grande misericordia avuta nei nostri confronti e provare quell'appagamento tipico di chi ha sempre vissuto alla presenza di Dio. Se la presenza di Cristo ci basta, tutto il resto è un di più. Diversamente possiamo avere ogni cosa ma essere insoddisfatti. Il fratello del figlio prodigo viveva nella casa del padre, ma era come se non ci fosse. Era ricco, ma viveva da povero. In questo modo si adempiva ciò che dice il libro dei Proverbi C, è chi fa il povero e ha grandi beni. Proverbi 13:7. Questo rimprovero riguarda ogni figlio di Dio. Essi sono ricchi in Cristo, hanno ogni cosa, possiedono ogni cosa. Se vogliono lamentarsi, se si sentono in diritto di lamentarsi, non lo fanno perché non hanno, ma perché non conoscono tutte le risorse di Dio e di conseguenza non se ne appropriano. Proprio perché vi è questa tendenza, chi ha posto fede in Cristo deve dedicare del tempo per meditare nella parola di Dio tutto ciò che ha ricevuto. Il credente che legge di aver ricevuto uno spirito di amore, forza e di autocontrollo non chiederà l'amore, la forza o la capacità di compiere ogni cosa, ma si affiderà alle promesse di Dio per realizzare ciò che già gli è stato dato. Questo è il cristianesimo. Chi chiede ciò che ha ricevuto si trova nella fase dell'essere religioso che chiede per ottenere, mentre il cristiano ringrazia e adora per vivere le promesse ricevute. Noi che siamo figli di Dio siamo responsabili se non viviamo la vita offertaci da Cristo. Noi abbiamo la pace di Dio, se non ne facciamo uso siamo degli inquieti. Noi abbiamo la gioia di Dio, se non ce ne appropriamo siamo dei depressi. Noi abbiamo la persona dello Spirito Santo, se non viviamo sottomessi a lei siamo degli sconfitti. Noi abbiamo la sapienza di Dio, se non ci crediamo siamo i più ignoranti. Noi abbiamo l'amore di Dio, se non lo sperimentiamo siamo pieni di odio. Noi abbiamo la gloria di Dio, se non la vediamo siamo nell'infamia. Noi abbiamo Cristo, se Egli non vive in noi siamo i più miserabili. Se il cristianesimo non si impone nel mondo è perché coloro che lo professano danno l'impressione di non aver nulla di diverso dagli altri. Eppure l'Apostolo Paolo domanda, colui che non ha risparmiato il proprio figliolo, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Romani 8:32. E ancora, ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. 1 Corinzi 2:9-12. Quante volte ci rallegriamo durante il giorno per il fatto di essere tanto ricchi? Non abbiamo capito che le cose terrene sono passeggere, ma quelle celesti sono eterne? Perché preghiamo tanto per le cose terrene, salute e denaro, ma lodiamo tanto poco Dio perché eravamo poveri e ci ha fatti ricchi? E forse perché in fondo non ci crediamo poi tanto, confessiamo a Dio la nostra incredulità, ed Egli verrà incontro alla nostra poca fede. Se vuoi sentirti ricco, conta tutte le cose che hai e che non puoi acquistare con il denaro. Se non riteniamo la comunione con Dio come la cosa più preziosa, e non ci rallegriamo perché ogni cosa di Dio è nostra, allora invidieremo gli increduli che stanno meglio di noi. E, nel nostro cuore, sorgeranno dozzine di peccati. Ci sono due detti che spesso mi passano per la mente. La felicità non porta sempre con sé la riconoscenza, ma tutti coloro che sono riconoscenti sono felici. La scontentezza rende povero anche l'uomo ricco, mentre la contentezza fa ricco anche un uomo povero. Abbiamo bisogno che Dio modelli il nostro carattere, il nostro modo di affrontare la vita, che ci riveli quanto siamo fragili, malvagi. Forse noi non lo abbiamo capito, ma perfino i bambini sanno quanto sia importante vivere la gioia della vita cristiana. Un bambino lo aveva capito bene quando pregò: Signore, fa che le persone cattive diventino buone, e fa che le persone buone diventino simpatiche. Non commettiamo ora l'errore di chiedere a Dio di diventare simpatici. Chiediamo a Dio di rivelarci chi siamo, perché in fondo sono sempre le persone che hanno una buona opinione di se stesse che si arrabbiano, che sono intransigenti. L'opinione che abbiamo di noi stessi condiziona il nostro modo di relazionarci con il prossimo. Ecco perché la Bibbia denuncia non tanto il peccato evidente dei cattivi, quanto il peccato nascosto dei giusti. Nella parabola dei lavoratori delle diverse ore sono stati i migliori, quelli che hanno lavorato di più a arrabbiarsi con il padrone, cioè con Dio. Lo hanno incolpato di ingiustizia, di parzialità. Sonda nel tuo cuore e chiedi a Dio di rivelarti la complessità del tuo cuore, malvagio e insanabilmente maligno. È una grazia di Dio conoscere la propria malvagità, e pochi sono coloro che cercano questa grazia. Per porsi davanti alla propria ombra, ai propri difetti, ci vuole coraggio e umiltà. Il re Davide da ragazzo faceva il pastore, voleva combattere Golia, ma il fratello maggiore, che era un valoroso e che avrebbe dovuto combatterlo, si adirò. Noi abbiamo bisogno che Dio ci riveli quello che Egli ci ha dato. Abbiamo bisogno di imparare a ringraziarlo ogni giorno. Abbiamo bisogno di essere riconoscenti perché la sua presenza è costante e fedele. Il nostro Dio sa che noi abbiamo bisogno di mangiare e di vestirci, e appunto perché lo sa, ci esorta a non essere ansiosi, a non essere preoccupati di questo, perché se Egli ha cura di noi e si interessa a noi, ci darà quello che ci necessita veramente. Gesù afferma che sono i pagani che ricercano tutte queste cose. I pagani, sì. Forse tu pensi di essere un cristiano, oppure ti dichiari cristiano, ma se tu ricerchi queste cose prima del regno di Dio, ebbene, tu sei un pagano. Sì, i pagani non sono solo quelli che vivono là, nell'Africa o nell'Asia, che non conoscono niente di cristianesimo, ma sono coloro che apparentemente sembrano cristiani, ma vivono poi una vita senza Dio. Sono coloro, secondo Gesù, che ricercano prima le cose terrene e poi, quando hanno tempo, si interessano delle cose di Dio. Molto probabilmente il nostro bisogno primario è quello di essere convinti di avere una natura malvagia. Una cosa è sapere che siamo tutti malvagi, altra è esserne convinti, come una cosa è sapere che il fumo fa male, altra è esserne convinti. Chi sa che il fumo fa male può anche continuare a fumare, ma chi è convinto non fuma più. Così, chi è stato illuminato dallo Spirito Santo di possedere una natura che tende solo al male, avrà un cuore sempre riconoscente per ciò che Dio opera in lui. Le divisioni tra fratelli, le antipatie, i rancori, la mancanza di perdono non sono il risultato di credenti che si ritengono in comunione con Dio. Ricordati, ci è una cosa che Dio non può fare: guarire chi è sano. Finché io, tu e la comunità nella quale viviamo non prendiamo sul serio la pericolosità della nostra natura malvagia, non vi è crescita spirituale per i santi dal cattivo carattere. Noi tutti conosciamo l'invito di Gesù alla chiesa di Laodicea, non a dei perduti. Io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. La comunione con Dio, una cena con Gesù non sono automatiche, non sono esperienze che si fanno per caso. La salvezza è una cosa, la comunione con Dio un'altra. Occorre udire la voce di Cristo, aprire la porta e lasciarlo entrare perché indaghi gli angoli più recessi della nostra vita. Egli è troppo cortese per penetrare a forza attraverso la porta. Gesù desidera entrare non come ospite, ma come investigatore. Se Gesù non ha il pieno diritto sulla nostra vita, siamo peggio del fratello maggiore. Egli si è adirato e non ha voluto entrare nella casa del Padre, noi ci adiriamo con noi stessi, con il prossimo. E il nostro brutto carattere rovina l'immagine di Dio, induce altri a bestemmiare il nome di Dio. Ma una vera comunione con Gesù trasformerà le nostre reazioni alterate dal peccato in azioni di benedizione per noi, per il prossimo e per il regno di Dio. Ma soprattutto la presa di coscienza del nostro brutto carattere ci permetterà di essere disposti a cambiare e di lasciare a Cristo Gesù di modellarci come a Lui sembra bene. Gesù dice: «Tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua». Rispondiamo: «Signore Gesù, ciò mi basta». Aprile 1995. Ellero.